Conosco te la nostalgia che ti sorprende all'improvviso. Rallenta un po' la corsa che ti ha tolto il fiato e ti ha deluso. Se il mondo intorno a noi non ci assomiglia mai, dividilo con me ed io lo prenderò e lo scaglierò lontano. E chiara nella sera tu sarai la luna che non c'è nell'aria più leggera. Questo cielo, quanto spazio c'è qui dentro me e ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Ritroverai la tua magia, piccola stella innamorata. Per quanta notte ancora c'è, in questa notte appena nata, il buio porterà con sé i fantasmi suoi, e se non dormirai, io ti ascolterò e ti stringerò più forte. Questo cielo, quanto spazio c'è qui dentro me e ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Questo cielo, quanto spazio c'è qui dentro me e ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Adesso che mi vuoi così anche tu.